Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Un caro saluto da Gigi Donelli e Alessandro Schirano. Ci vorrà tempo per risolvere la clamorosa crisi scoppiata tra i 27 dopo che Ungheria e Polonia si sono opposte all'adozione del bilancio comunitario per protestare contro un nuovo meccanismo che condiziona l'esborso dei fondi comunitari al rispetto dello Stato di diritto. La giornata di giovedì, quando si è riunito il Consiglio, ovviamente in versione video, ha ribadito il braccio di ferro. Quella dello Stato di diritto è una vicenda complicata che emerge con forza proprio in queste giornate complicate anche per la Polonia nel suo specifico, dove assistiamo, e l'abbiamo raccontato, a una serie di manifestazioni di piazza che sono legate all'intervento attraverso la Corte Costituzionale sul sistema legislativo in materia di interruzione della gravidanza. Insomma, un governo, diciamo, sotto pressione popolare, un governo, quello del PiS, fermamente al potere e con forte di una vittoria netta tanto alle elezioni politiche nel paese, tanto alle parlamentari. Tutto questo, insomma, per raccontare cosa sta accadendo o quantomeno quali sono le posizioni delle parti politiche, abbiamo deciso di invitare due eurodeputati. Sono da una parte Carlo Fidanza. Carlo Fidanza è il coordinatore del gruppo di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo. Sono sei eurodeputati all'interno di un gruppo di 62, di cui il nucleo più forte è proprio quello del PiS, Diritto e Giustizia Polonia, insomma i conservatori della destra europea. Dall'altra parte abbiamo Giuliano Pisapia, che ovviamente molti conoscono, 71 anni, europarlamentare dal 19 per il Partito Democratico, in passato sindaco di Milano, ma direi soprattutto avvocato e giurista. Li sentiamo entrambi. Adesso partiamo da Carlo Fidanza. Intanto gli abbiamo chiesto se la definizione di nazionalisti euroscettici, che ha lungamente contraddistinto il gruppo, li soddisfa ancora. Ma no, direi eurorealisti e patrioti. Abbiamo un approccio eurorealista, se vogliamo eurocritico, insomma, ma non pregiudizialmente contro l'Europa. Noi siamo per una riforma realistica dell'attuale Unione Europea, che secondo noi può essere migliorata in tanti suoi aspetti. Veniamo dunque al nodo di questa settimana. Diciamo che i titoli sono: Polonia e Ungheria bloccano il budget e dunque il recovery. La realtà è un po' più complessa. L'Ungheria e la Polonia, mi permetto di dire io, non accettano la cosiddetta condizionalità su i diritti che per la prima volta il Parlamento ha votato a maggioranza. È corretto? Sì, è corretto. Dobbiamo ricordare che diciamo, nella trattativa che è in corso sullo Stato di diritto va avanti a maggioranza qualificata. Invece sul bilancio pluriennale e sulle cosiddette risorse proprie, che servono a garantire i debiti che verranno fatti con il recovery fund, quindi con l'emissione dei titoli comuni che daranno origine al recovery fund, serve l'unanimità. E di conseguenza, essendoci un attacco politico in corso nei confronti di questi due governi sul tema dello Stato di diritto, ma siccome lì c'è la maggioranza qualificata dei due terzi, l'unico strumento di autodifesa che questi due governi hanno è esercitare il diritto di veto sul bilancio. Quello che lei ha detto, che è chiaramente il punto del vostro partito e dei vostri alleati del PiS, cioè in questa fase c'è un attacco politico, e nello stesso tempo però io le chiedo, lei ci ha spiegato che c'è stato un voto a maggioranza qualificata. Sì. Quindi il Parlamento europeo a larga maggioranza ha votato perché per la prima volta nella storia dell'Unione il rispetto dei diritti fosse collegato al bilancio, è giusto? Il Parlamento europeo ha votato con una risoluzione che chiede questo, poi si è aperto un negoziato. Il Consiglio invece a luglio aveva votato una formulazione diversa, con l'accordo di tutti i 27 governi, compresi naturalmente Polonia e Ungheria. Cioè, chiarissimo. Si sta cambiando le carte in tavola. Ecco. Da una parte la maggioranza di centrosinistra del Parlamento europeo e dall'altro i governi dei paesi frugali, che hanno dato la sponda alla maggioranza di centrosinistra del Parlamento europeo per mettere i bastoni tra le ruote al recovery fund, che loro non vogliono. Mentre invece la Polonia e l'Ungheria non hanno mai avuto contrarietà sul recovery fund. Contro il recovery fund non c'è nessuno. penso che ci siano ancora, nel senso che i governi dei paesi frugali hanno mal digerito l'accordo di luglio e stanno utilizzando strumentalmente la polemica dello sullo stato di diritto contro Polonia e Ungheria per allungare il brodo. Una strategia per complicare il percorso del recovery fund? Esattamente, ha due obiettivi diversi che però convergono. Da un lato l'obiettivo di una maggioranza di centrosinistra al Parlamento europeo di colpire degli avversari politici, governi di colore opposto che si oppongono, diciamo, ad alcune ingerenze di Bruxelles su alcune politiche nazionali, e dall'altro l'interesse degli stati frugali a rallentare il processo dei recovery fund che in realtà non hanno mai voluto e non hanno mai digerito. Ma non crede che lo stato di diritto contenuto nell'articolo 2 del trattato di Lisbona, ormai da 13 anni direi, non vale la pena di essere tutelato, cioè il rispetto dei diritti europei? Assolutamente sì, intanto che esiste una previsione dei trattati vigenti che prevede l'attivazione dell'articolo 7 dei trattati di una procedura specifica in una situazione di violazione dello Stato di diritto, e nessuna di queste procedure è mai arrivata a buon fine per quanto riguarda l'Ungheria e la Polonia. In questo caso si sta trattando di una cosa molto diversa che va oltre e contro i trattati, cioè una condizionalità vuol dire non ti do i soldi del bilancio europeo a cui tu, Polonia, contribuisci con i soldi dei tuoi cittadini polacchi se non ti adegui a quello che ti dico io, andando oltre quella che è la previsione dei trattati che hanno un meccanismo, una procedura già codificata in caso di violazione di diritti. Grazie a Carlo Fidanza, lo ricordo, capogruppo del partito Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, 6 eurodeputati. E adesso sentiamo Giuliano Pisapia, 71enne, europarlamentare, già sindaco di Milano, avvocato e giurista. Partiamo da un suo post sopra una foto in cui vengono ritratti Orban e Morawiecki, dunque i premier rispettivamente di Ungheria e Polonia. Un post, la prima riga è: Polonia e Ungheria continuano a dimostrarsi non adatte a far parte dell'Unione Europea. Pisapia. Sì, il motivo è molto semplice e forse poco conosciuto, ma Ungheria e Polonia sono da tempo in una situazione di procedure per sanzioni, per violazione dello Stato del diritto, dei principi base dell'Unione Europea. Purtroppo tutto è bloccato attualmente dal Consiglio, e cioè dai sei Stati che non hanno il coraggio di fare quello che il Parlamento ha deciso alla grandissima maggioranza. A questo punto bisogna prendere una decisione, da cui dipende e da cui dipenderà anche la possibilità di ingenti finanziamenti per i paesi. L'Unione Europea deve dare delle somme ingenti a due paesi che non rispettano i principi base su cui si fonda l'Europa. Io credo di no, è una cosa su cui riflettere, su cui dobbiamo prendere delle decisioni, ma certo non possiamo subire un vero e proprio, tra virgolette, ricatto per cui non votano a favore di qualcosa che invece tutta l'Unione Europea e non solo l'Unione Europea aspetta, cioè l'aiuto in una situazione così complicata e così difficile. Aggiungo che c'è una norma specifica dei trattati del funzionamento dell'Unione Europea, l'articolo 122 della TFUE, che prevede espressamente che quando c'è una situazione eccezionale, allora non c'è più bisogno dell'unanimità. Io credo che è ora di prendere le decisioni indipendentemente dalle posizioni di due paesi. Loro dicono il punto non è che non consideriamo lo Stato di diritto, ma che questa è una forzatura che viene fatto per mettere nell'angolo i paesi sovranisti europei. Ma no, non è così, tanto è vero che il Parlamento europeo ha votato a larghissima maggioranza almeno due risoluzioni di sanzione nei confronti di Ungheria e Polonia, quindi non è qualche cosa contro quei due paesi, è qualche cosa che richiede rispetto dei principi base dell'Unione Europea e di una suddivisione di solidarietà che oggi è importante. E nello stesso tempo non è mai chiaro chi debba decidere di fronte a una controversia di questo tipo. In genere si tende a decidere all'unanimità, siccome non è possibile l'unanimità bisogna prendere le norme che anche sono state approvate recentemente a livello europeo. L'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che deriva dal trattato di Lisbona, quindi che è relativamente recente, prevede espressamente che in circostanze eccezionali ci sia anche la possibilità e in alcuni casi il dovere di votare non all'unanimità. Del resto è un tema che prima o poi poi doveva scoppiare, è meglio prendere posizioni in questa situazione di difficoltà per guardare anche al futuro. Non può un singolo paese bloccare quello che hanno previsto tutti i paesi dell'Unione Europea. Pensiamo solo ai paradisi fiscali. L'Olanda non voterà mai a favore di qualche cosa che contrasta i paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea. Un'Unione Europea che rimane ferma sul punto o una mediazione, chiamiamola così genericamente, che viene sempre trovata? Ma io sono sempre favorevole a trovare la mediazione. Non bisogna mai aver paura di mediare, ma non bisogna neanche mediare per paura, diceva Kennedy. Bisogna trovare il modo di trovare una soluzione il più condivisa possibile. Però certo non possiamo più accettare che l'Europa venga considerata un bancomat. Ho bisogno, mi dai, quando però mi chiedi di rispettare certe regole che tu hai condiviso e che tu hai sottoscritto, allora a questo punto qualcosa deve cambiare. Io credo che bisogna continuare il più possibile a trovare il punto di mediazione alto, ma non il compromesso ignobile, che sarebbe una sconfitta per l'Europa attuale e per l'Europa in futuro. Grazie anche a Giuliano Pisapia, grazie ancora a Carlo Fidanza. Adesso aggiornamenti per chi è in viaggio e poi partiamo con altri temi per la seconda parte di Europa Europa. Europa Europa. Ben ritrovati per questa seconda parte di Europa Europa. Adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo di un accordo commerciale. Un grande accordo, Bloomberg lo ha definito il più grande accordo commerciale del mondo, il Financial Times ha usato l'intera storia come metro di paragone. L'oggetto di tutti questi superlativi è l'accordo appunto commerciale che a inizio settimana hanno annunciato i leader di 15 paesi asiatici dell'Oceania, capitanati dalla Cina che ha tirato dentro colossi come Giappone, Corea del Sud, ma anche paesi come Australia e Nuova Zelanda. In tutto questo, come avete sentito, la parola Europa non c'è e allora proprio per questo con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buongiorno Beda innanzitutto. Buongiorno Gigi. E allora dicevo, proprio per questo forse vale la pena di occuparsene qualche minuto. Allora, cosa significa, qual è la portata di questo accordo? La portata dell'accordo è di per sé interessante per il numero di paesi coinvolti. Sono 15, di cui la Cina, ma ci sono anche paesi che sono fondamentalmente delle democrazie liberali come il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud. In tutto rappresentano circa il 30% del prodotto interno lordo mondiale, insieme rappresentano circa il 30% della popolazione mondiale. Ed è un accordo di libero commercio con una forte riduzione dei dazi commerciali che riguarda anche gli investimenti e la proprietà intellettuale, ma non riguarda un aspetto importante in questo momento che è quello dell'ambiente e della sostenibilità ecologica. Gli esperti lo considerano un importante accordo commerciale da un punto di vista storico per il numero di paesi partecipanti. Nel lungo termine, gli obiettivi quali sarebbero? Ho l'impressione che sono quelli di imporre in un modo o nell'altro a livello mondiale gli standard regolamentari, gli standard normativi, soprattutto nell'industria e nella produzione manifatturiera. Questo aspetto è un aspetto che molto spesso viene sottovalutato quando si discute di accordi commerciali. Tutti noi guardiamo al libero scambio. In realtà l'accordo commerciale è tanto più importante, tanto più comporta un numero nutrito di paesi, tanto più avrà un impatto politico. Non dimentichiamoci, per esempio, che quando gli Stati Uniti e l'Unione Europea decisero nel 2013 di negoziare un accordo di libero scambio, l'obiettivo non era tanto quello di aumentare gli scambi commerciali. L'obiettivo era quello di mettere a punto degli standard normativi che avrebbero potuto imporre al resto del mondo per 20-30 anni più o meno. Sappiamo che quell'accordo non andò in porto, ma davanti a questo accordo firmato domenica scorsa in Vietnam vi è proprio il tentativo, dobbiamo immaginare tentativo soprattutto cinese, di fare la stessa cosa, ossia di cercare di imporre per i prossimi 20-30 anni i propri standard produttivi. Che ovviamente non sono quelli dell'Europa e dunque la questione, le implicazioni per l'Europa. L'impressione evidente è che questo accordo dovrebbe indurre l'Europa a rafforzarsi ancora di più. stringere le fila ancora di più, a cercare di affrontare il resto del mondo con un livello di integrazione maggiore. In campo commerciale questo è chiaro, è evidente che quando l'Europa negozia a livello internazionale insieme, i 27 paesi insieme, il peso negoziale dell'Unione Europea si tocca con mano. Questo aspetto economico ci è già chiaro. Ho l'impressione che l'accordo asiatico firmato domenica ci fa riflettere anche sugli aspetti politici di queste intese. E mi sembra di poter dire che di fronte a questa intesa vi è ancora più ragione per l'Unione Europea di rafforzare la propria integrazione per meglio difendere i propri interessi in giro per il mondo. Magari cominciando dal definire in questo specifico momento quelle regole comuni intorno al bilancio pluriennale, ma soprattutto in queste ore, ne abbiamo parlato nella prima parte, sullo Stato di diritto, su tutti quegli elementi che dividono gli europei. Assolutamente. Il problema del bilancio è un problema che a un certo punto si risolverà, ma è chiaro che in un momento storico in cui bene o male l'Unione Europea ha deciso di indebitarsi sui mercati per circa 750 miliardi di euro pur di uscire insieme dalla crisi economica di questi mesi, ebbene non essere in questo momento ancora in grado di firmare e di adottare definitivamente questo bilancio è evidente che getta un'ombra sull'immagine dell'Europa, ma ho l'impressione che sia questione di giorni se non settimane, e alla fine ho l'impressione che tutti i 27 firmeranno il bilancio per permettergli di entrare in vigore rapidamente. Grazie a Beda Romano. La pandemia, cambiamo argomento, non ferma Erasmus, studenti pronti a ripartire in chiave green. Sentiamo il servizio di Silvia Bernardi. Dall'emozione di sapere di essere ammessi, dalla curiosità messa in valigia insieme ai vestiti prima di partire, alla nostalgia che chiudi a fatica dentro il bagaglio quando è ora di tornare a casa, consapevoli di non essere più gli stessi. Erasmus è tante cose insieme. È un nome in grado di evocare viaggi, spostamenti, scambi di ragazzi, mobilità, fluidità, apertura, tutte cose che il Covid ha congelato. Congelato, non cancellato, perché il progetto, che è nel cuore del sogno europeo da oltre 30 anni e nel cuore di oltre 3 milioni di studenti, continua ad andare avanti. Qualcuno parte per restare poi in residenza a fare lezioni online, la maggior parte resta in attesa di tempi migliori. Siamo incappati in una grave epidemia che blocca la mobilità e quindi per superare questa difficoltà si farà ricorso ad un sistema misto, diciamo, blended, composto da una parte dell'attività di scambio di formazione che avverrà attraverso la modalità telematica, quindi virtuale, e una seconda parte, sperabilmente quando sarà terminata l'epidemia, che avverrà invece in presenza. Sebastiano Fadda è il presidente dell'INAP, l'Agenzia Nazionale del Programma Comunitario Erasmus+, per l'ambito istruzione e formazione professionale, che nel 2020 ha approvato 126 progetti di mobilità all'estero che vanno dall'economia circolare alla mobilità smart, dall'informatica con lo sviluppo della tecnologia 3D all'agri-food, senza dimenticare il turismo per lo sviluppo delle competenze e l'accesso al patrimonio culturale locale, in aggiunta a progetti per innovare il terzo settore e favorire occupazione e inclusione. L'obiettivo è quello di colmare il divario tra richieste di lavoro e competenze. Sì, perché se ci sono quasi 6 milioni di giovani europei disoccupati, ci sono oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un datore di lavoro su 3 segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche richieste. Erasmus è pensato proprio per proporre percorsi in grado di colmare questo mismatch con un budget di 55 milioni di euro che serviranno per i progetti della nuova programmazione 2021-2027 che avrà una forte componente green, come ci spiega Ismene Tramontano, direttrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus+. La prossima programmazione, che riguarderà il periodo 2021-2027, manterrà alcune delle sfide aperte, in particolare una legata alla transizione digitale, che sappiamo essere un tema molto importante che ha riguardato in particolare il nostro periodo di pandemia, perché il programma ha dovuto ripensare le mobilità prevedendo una parte di mobilità virtuale, una parte di mobilità in presenza. Altri temi saranno l'inclusività dei sistemi e lo sviluppo di competenze green. Cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e per il mondo, e per superare queste sfide l'Unione Europea ha definito una nuova strategia per la crescita volta a trasformare l'Unione in un'economia moderna, competitiva e sostenibile, trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità. E su questo tema, per esempio, il progetto Forest for Life, coordinato dall'Istituto Scolastico Baruffi di Ceva, in cui 4 istituti scolastici hanno preparato la figura professionale di tecnico dell'ambiente forestale, e questo progetto ha permesso a 88 studenti dell'ultimo biennio dei 4 istituti scolastici coinvolti di effettuare esperienze formative di mobilità all'estero per 5 settimane. E allora, nonostante diversi stati europei siano in questo momento in lockdown e la pandemia non sia ancora sconfitta, si lavora per la nuova programmazione Erasmus ed Erasmus Plus, pronti a ripartire con più emozione di prima. E con Silvia Bernardi si chiude questa puntata di Europa Europa. Vi ricordo che potete ritrovare tutto sul nostro sito www.radio24.it, nelle pagine dedicate di Europa Europa. Vi ricordo anche che tra un istante tutti gli aggiornamenti delle notizie nel nostro giornale radio. Un buon fine settimana a tutti voi.